La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Allo? Oui? Enchanté, monsieur. Je suis très content du prix Nobel. Je vais à Stockholm, certainement. Abbiamo avuto la fortuna di registrare alle 15.45 del pomeriggio di oggi la telefonata che ha ricevuto Salvatore Quasimodo dall'ambasciatore svedese a Roma, con la quale gli si comunicava che gli è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura. Professor Quasimodo, questa telefonata ha interrotto con una bellissima notizia. Stiamo parlando delle poesie mie più famose. È il 1959. Il poeta siciliano Salvatore Quasimodo vince il premio Nobel per la letteratura. Riceve la comunicazione al telefono mentre sta rilasciando un'intervista a un giornalista Rai. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Nella casa milanese del poeta, appena premiato, ci sono la moglie e il figlio Alessandro. Alessandro ha 20 anni, quel giorno lo ricorda bene, sarà la prima volta di un profondo tradimento. Lei aveva 20 anni quando suo padre ha vinto il premio Nobel per la letteratura, uh-huh. Se lo ricorda quel giorno? Beh, io me lo ricordo, sì, è stato un giorno di grande agitazione più che altro, per via un po' di voi giornalisti, ecco, che sono venuti a prendere un po' d'assedio alla nostra casa, e io ho preferito poi anche mio padre trovarsi fuori. Per esempio, ci sono delle belle fotografie che ho recuperato davanti al conservatorio dove mio padre insegnava letteratura italiana, e lì abbiamo un po' posato anche per i fotografi, ecco. L'emozione c'è sicuramente, perché si condivide una gioia, un riconoscimento, che poi è stata molto amareggiata dal fatto che invece lui non mi ha portato a Stoccolma. Vanno due a due i poeti verso chissà che luna, amano molte cose, forse nessuna. Il padre, Salvatore Quasimodo, quell'uomo schivo, dal portamento elegante, contenuto, non porterà il figlio a Stoccolma a ritirare il Nobel. Non porterà la moglie, una danzatrice, Maria Cumani. Si tratta di un gesto mancato, di una scelta che segnerà per sempre i destini dell'intera famiglia. Quasimodo andrà a Stoccolma con l'amante di quel momento. Il figlio Alessandro, ancora oggi, ricorda con gran dolore quello strappo insopportabile. Invece lui non mi ha portato a Stoccolma. Come mai? Perché? Perché c'erano delle ragioni sue. Probabilmente aveva promesso a qualcun'altra di portarla a Stoccolma. E sai che ci sono delle sedicenti segretarie, sono oggetto a volte delle barzellette che sentiamo spesso. Ecco, anche lui aveva una segretaria che, oltre a fare il suo compito di segretaria, ha voluto andare a Stoccolma al posto di mia madre e al posto mio. E questo io a lui non gliel'ho mai perdonata, perché è una cosa che capita una sola volta nella vita, e quindi non ho trovato giusto questa scelta sua. E da questo fatto poi è scaturita anche la richiesta di mia madre di separazione legale, proprio per questa specie di, dopo anni che le è stata vicino, che si è sacrificata per lui, che ha sacrificato un po' anche la sua carriera e aveva un pesante budget familiare, perché non è che guadagnasse molto il poeta. E quindi a un certo momento, quando puoi condividere agli onori del mondo una vittoria di quel genere, un riconoscimento di quel genere, ti senti esclusa, e quindi questa è stata la cosa che ha, la goccia che ha fatto traboccare un po' il vaso, ecco. E lui ha tentato in qualche modo di recuperare con lei questo strappo? Ha tentato, sì, di recuperare un po' qualche anno dopo con me, e si è sentito offeso proprio per la richiesta che è partita da lei, perché con questa concezione sicula dovrebbe essere il maschio che casomai se ne va di casa e abbandona la donna, non la donna che dice adesso basta. E poi quando si è sentito molto solo, perché in tutto questo suo avere persone intorno, che però molte volte ti stanno intorno anche per interesse, e quindi in fondo uno può essere anche in mezzo a una folla e sentirsi profondamente solo, e quando ha avuto bisogno di un legame, di un ascolto familiare, ha scelto la vittima giusta, ecco, cioè suo figlio. Quindi diciamo è stato un rapporto complicato quello che lei, Alessandro Quasimodo, ha avuto con suo padre Salvatore. Beh sì, complicato nel senso che era un uomo che giocava molto in difesa, ecco, quindi era difficile entrare nell'area, usando un linguaggio calcistico, era più facile che lui avesse dei rapporti con estranei, più diciamo che non con i familiari, ecco, questo accade spesso, no? Che sia più disponibile una persona verso l'estraneo che viene da fuori piuttosto che chi ha intorno e che non ha più bisogno di conquistare, perché è come una proprietà privata e quindi sai che esistono queste persone e quindi le puoi anche trascurare. Ecco. Salvatore Quasimodo, il poeta amato da milioni di italiani, l'antifascista che con i suoi versi ha saputo superare i confini nazionali, è in realtà un uomo chiuso, un fico d'India, così come lo definirà un giornalista dell'epoca. Ma è anche il poeta che ha saputo condensare in pochi versi il dolore di un'intera nazione, come fece in Alle fronde dei salici, che leggerà lui stesso così. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze, sull'erba dura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi dal triste vento. Alle fronde dei salici, scritta da Salvatore Quasimodo durante il periodo della guerra, è una poesia contro i nazifascisti. Alle fronde dei salici stanno le cetre, che i poeti hanno smesso di usare in modo da chiedere a Dio la grazia di far cessare il supplizio nazista. Il grande poeta Salvatore Quasimodo è un padre imperfetto, spalancato nell'impegno civile, ma avaro d'amore per il figlio. La prima volta. Hanno due a due i poeti, poi ritornano quasi sempre, come gli alberi di Natale quando arriva dicembre. Si specchiano nelle vetrine dentro ai loro successi, poveri poeti soliti, quasi sempre gli stessi. È la prima volta di Alessandro Quasimodo. Siamo nel 1959, il ragazzo ha 20 anni, il padre, Salvatore, è stato da pochi giorni insignito del Nobel alla letteratura. Alessandro è pronto ad accompagnare il poeta a Stoccolma, ma Salvatore Quasimodo non rispetterà la promessa e andrà in Svezia con l'amante. Come può un poeta comportarsi in questo modo? I poeti sono spesso crudeli, dirà il figlio di Quasimodo, che a casa sua, da ragazzino, ha visto passare Ungaretti, Montale, Vittorini. A casa sua sono passati nomi come Vittorini, Montale, Ungaretti stesso. Sono tutti rapporti, sì, che in quanto mi chiamo Quasimodo, queste persone in qualche modo un po' di attenzione in più l'ho avuta. a volte era un'attenzione anche negativa, nel senso che molte persone erano non ben disposte verso mio padre. Ho parlato di Montale, ecco, Montale è stato una delle persone più difficili e veramente per il suo carattere così schivo, scontroso e allontanante, credo che avere dei rapporti con Montale fosse abbastanza complicato anche per le persone che gli erano vicine. Con Ungaretti ho proprio in virtù del mio lavoro, quando ho cominciato a lavorare a leggere, sono stato invitato a leggere appunto delle cose di Ungaretti e proprio di fronte a lui, e quindi c'è stato da parte sua questo slancio verso di me, come Alessandro Quasimodo, come giovanissimo attore, avevo 20 anni e poco più, ecco. La poesia che il giovane attore Alessandro Quasimodo legge era Gridasti Soffoco, una poesia che Ungaretti scrisse alla morte del figlio di 9 anni e di cui vi offriamo un estratto. Non potevi dormire, non dormivi. Gridasti soffoco, nel viso tuo scomparso già nel teschio, gli occhi, che erano ancora luminosi, solo un attimo fa, gli occhi si dilatarono, si persero. Sempre era stato timido, ribelle, torbido, ma puro, libero. Felice rinascevo nel tuo sguardo. Poi la bocca che una volta pareva, lungo i giorni, lampo di grazia e gioia, la bocca si contorse in lotta muta. Un bimbo è morto. 9 anni, chiuso cerchio. 9 anni cui né giorni, né minuti, mai più s'aggregarono. In essi s'alimenta l'unico fuoco della mia speranza. Posso cercarti, posso ritrovarti, posso andare, continuamente vado, a rivederti crescere da un punto all'altro dei tuoi 9 anni. Io di continuo posso, distintamente posso, sentirti le mani nelle mie mani. La generazione di Ungaretti, di Salvatore Quasimodo, di Montale è una generazione attraversata dalla più atroce guerra. Chi si batterà contro il fascismo e chi non lo farà. Salvatore Quasimodo, il figlio di un capostazione siciliano, deciderà di andare contro il fascismo, lasciando un testimone importante a un'intera generazione, alla nostra stessa storia e a suo figlio. Si tratta del coraggio di esporsi, di essere fino in fondo coerenti. Sarà la ragione che porterà Quasimodo a schierarsi contro il fascismo apertamente, senza remore e senza timori, come avvenne quando era allora dipendente della Rinascente. Negli anni 20 mio padre, quando se n'è andato di casa, perché chiaramente ha sentito che sul territorio, nel Messinese, in Sicilia, sarebbe stato costretto a seguire un percorso che non amava. Lui aveva un diploma come geometra, quindi il padre lo voleva indirizzare a usare questo diploma per avere un impiego sicuro. Lui se n'è andato di casa e ha fatto un po' di tutto. A Roma è stato andato a fare il disegnatore tecnico per un ingegnere, è andato a lavorare come commesso in un negozio di ferramenta e poi ha ottenuto un impiego presso la Rinascente in Piazza Colonna, e lì era un posto che appunto dava maggiori garanzie. Però cosa è successo? Stava per entrare in vigore la legge fascista che proibiva il diritto di sciopero, e qual è la prima idea di un sovversivo doc? È quella di organizzare uno sciopero. Secondo me, mi impediscono di fare una cosa, la faccio subito. E l'ha organizzato tra i dipendenti della Rinascente. Sono arrivati i carabinieri a cavallo e lui è stato prelevato di peso e come agitatore portato in questura e ha perso chiaramente il posto. Però io credo che queste cose siano indicative della coerenza di una persona. Ecco, io anch'io sono molto coerente, anche se a volte uno può sembrare che sia remissivo. Ecco, io certe cose non le accetterei mai, e quindi capisco mio padre in quella circostanza, capisco il suo ribellarsi, e a costo appunto di perdere, di giocarsi l'unica possibilità che aveva di sopravvivenza, ecco. E questa passione, diciamo, per la coerenza gliel'ha passata, però devo dire che durante l'intervista forse è stato coerente anche lei durante l'intervista, perché solo adesso ha usato la parola padre. Sì, ecco, io mi sono abituato, molti mi dicono perché lo chiami Quasimodo, perché è Quasimodo. E se parlo di Pascolo lo chiamo Pascolo, non lo chiamo padre. Però Pascoli non era suo padre. No, ma lo è in qualche modo, lo è. Io ho tanti padri, io non sono geloso di mio padre. Se qualcuno vuole fare il figlio di Quasimodo in senso ideale, ben venga. Questa storia, la prima volta di questa lunga storia familiare, ha inizio nel 1959. È l'anno in cui un figlio scopre l'infedeltà di un padre, ma è anche un anno che porterà il ragazzo a volare via dal nido. Ferito, ma forte, Alessandro Quasimodo, il figlio di uno dei più grandi poeti italiani, sceglierà la sua strada. La cosa che mi ha in qualche modo orientato verso il mestiere che faccio, ecco, è stato che io, mio padre, oltretutto, Quasimodo lavorava a Tempo, che era una rivista diretta da Tofanelli, ed era critico teatrale. Quindi ho capito intorno ai 6, 7, 8 anni che il nome Quasimodo mi dava la possibilità la domenica pomeriggio di entrare gratuitamente nei teatri. Le maschere mi conoscevano, mi facevano entrare. E ho visto degli spettacoli assolutamente incredibili, pensando appunto alla mia età anagrafica, che appartengono alla storia del teatro, ecco. E un giorno, da lì è scattata la molla, io avevo a casa il consueto teatrino dei burattini con cui facevo le mie piccole rappresentazioni, ma andando all'Olimpia, un teatro che non esiste più, ho visto Così e se vi pare. A un certo momento è entrata un'attrice che faceva la signora Frola, che era praticamente l'erede di Eleonora Duse, emagrammatica, e a un certo punto non ho più capito se lei stesse recitando il ruolo, se fosse realmente la signora Frola che è venuta a raccontarci la sua storia. Alla fine, timidissimo com'ero, ho bussato al camerino di emagrammatica e così mi sono presentato, e lei, solita cosa che viene chiesta dai grandi, dice: tu cosa farai da grande, ecco, dagli adulti. E io ho detto: ma io voglio fare il regista. E lei mi ha detto: no, dice, se le persone come te stanno dietro le quinte, chi è che va in scena? E questo è stato il sasso lanciato nello stagno che mi sono portato dietro. E allora mi sono fatto coraggio, ho detto: signora, ma lei quando entra in scena cosa prova? E lei mi ha detto: guarda, io a te lo dico, ho 84 anni e ho cominciato a lavorare a 4 anni, sono 80 anni che vado in scena. E allora se qualcuno venisse un minuto prima di entrare in scena e mi dicesse: signora Grammatica, quanto mi dà per non entrare in palcoscenico? Direi tutto. Dopo 10 secondi che sono entrata, non ci sarebbe cifra al mondo che mi potrebbe far tornare indietro. Quindi è questo quello che uno prova, e ha perfettamente ragione, perché prima di entrare in scena hai questo tremore, hai questo senso quasi di angoscia, e quando poi sei lì e ti senti padrone della scena, allora potresti stare la vita lì, il palcoscenico. Recitare poesie vagando per il mondo, in compagnia della bellezza e dell'arte. Alla fine, Alessandro Quasimodo impara questo. Il padre, il poeta, L'uomo che ha vinto i più insigni riconoscimenti non riesce ad essere padre fino in fondo e il ragazzo, che oggi è un uomo, imparerà dal dolore di una mancanza ad essere libero e forte, come suo padre e sua madre volevano nonostante tutto. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo. Per un compagno ubriaco. La prima volta termina qui. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it oppure riascoltateci sul sito di Radio 24. Domenica prossima, sempre alle 13, con noi ci sarà Renzo Piano. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli.